Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Vi parlo di un libro, di un romanzo che apparentemente un'autobiografia, ma non lo è. Adesso vi svelerò il mistero. Si intitola 24 secondi, l'ha scritto Simone Marcuzzi, sottotitolo Autobiografia di Vittoriano Cicuttini, ed è pubblicato da 66 and a Second, giusto per intenderci, quella casa editrice dove, per riconoscere il marchio, 66THA2ND, perché si chiama così questa piccola casa editrice romana? Perché quando era nata l'idea, ai due editori, si trovavano a New York e si incontravano sempre all'angolo fra appunto la 66esima e la seconda, e la seconda strada Avenue. Per questo l'hanno chiamata appunto 66 and a Second. È un nome un po' difficile da dire, però ragazzi è così. Questa casa editrice ha la caratteristica di pubblicare romanzi che hanno a che fare con lo sport. Questo è un romanzo, io ho detto è una finta autobiografia, perché è vero che c'è scritto così, ma Simone Marcuzzi ci ha voluto un po' giocare su questa cosa, perché in realtà il protagonista, questo Vittoriano Cicuttini, non è mai esistito. No, esatto, è totalmente inventato il personaggio. Tu lo sai che io sono andata a vedere se, su Google, ma... se esisteva veramente. E quindi ho fatto un buon lavoro, vuol sì. dire. No, diverse persone me l'hanno detto, che dopo aver letto il libro, ma non è possibile, ho fatto delle ricerche a Google, Vittoriano Cicuttini, e non viene fuori niente. Quindi vuol dire che il risultato è stato raggiunto almeno in parte. E tu ti sei immaginato questo ragazzo che dal Friuli Venezia Giulia, di cui anche tu sei originario, ci vivi ancora a Udine, arriva addirittura a giocare ai livelli dell'NBA americano, cosa che insomma adesso ci sono dei giocatori italiani, giusto, nell'NBA? Sì, ora ce ne sono tre adesso, sì. Ricordiamo chi sono. Sono Andrea Bargnani, Danilo Gallinari e Marco Bellinelli. Ecco, però quando tu hai ambientato il romanzo, diciamo fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, non era una cosa, no, come infatti, dire, così frequente. No, tutt'altro, infatti Vittoriano arriva nell'NBA nell'86, quando gli italiani non c'era neanche uno, ma soprattutto c'erano pochi europei in generale. Erano gli anni in cui i primi europei cominciavano ad andare in America, e mi piaceva questa idea anche del fatto che lui fosse un po' un pioniere, infatti anche per il fatto di andare là. I primi italiani veri in realtà ci sono arrivati a metà anni 90, sono stati Esposito e Rusconi, ma quasi 10 anni dopo di Vittoriano. Invece tu l'hai voluto insomma ambientare prima, l'hai voluto fare un antesignano insomma. Sì, questo mi piaceva perché poi per la sua carriera, prima di arrivare nell'NBA, avesse giocato anche nella mitica Milano di Dan Peterson, quindi c'era un po' di epica sportiva che mi piaceva richiamare. Ecco, c'è l'epica sicuramente sportiva, è un romanzo che parla molto di basket, ma che parla proprio di vita vera, di vita vissuta, perché si segue un po' tutta la vita di Vittoriano, e Vittoriano, che è arrivato a circa 50 anni, racconta la sua storia a ritroso. Allora, partiamo da questi 24 secondi che danno il titolo, che come si capisce sono 24 secondi fondamentali in una partita. Sono 24 secondi, che è il tempo che una squadra nella pallacanestro ha a disposizione per completare un'azione d'attacco, quindi per tirare la palla verso il canestro. In realtà abbiamo scelto questo titolo anche proprio per in realtà rievocare un'unità di tempo molto breve, che nella vita di una persona può cambiare un'esistenza, può riabilitarla oppure farla rivoltare in senso negativo. La vita di Vittoriano in effetti ha diversi risvolti interessanti anche dal punto di vista umano. Non avrei mai scritto un romanzo solo sulla pallacanestro, non mi sarebbe interessato. Volevo raccontare la storia di un uomo da quando lui, dalla sua nascita, diciamo dalla sua infanzia, fino all'età adulta. Infatti Vittoriano, quando scrive, come hai detto tu, ha 50 anni e ci racconta la sua intera vita. Quali sono i punti cardine di questa vita? Il basket l'abbiamo visto perché fa parte del titolo, è un po' il fil rouge che lega tutto il romanzo, però ci sono almeno altri due o tre aspetti fondamentali nella vita di Vittoriano. Sì, a fare da ossatura di tutto il romanzo in realtà c'è il rapporto con suo padre. Il romanzo parla molto dell'essere padre e dell'essere figli. Il padre di Vittoriano è un uomo dispotico, era stato a sua volta un grande atleta, però nel pugilato, con un picco molto alto. Lo costringeva anche a vedere le partite di pugilato, giusto? Sì, lo costringeva a vedere le partite, la mitica... Gli incontri. Ecco. Sì, l'aveva svegliato anche nel cuore della notte per vedere il mitico incontro di Kinshasa tra Muhammad Ali e Foreman. Aveva avuto un picco altissimo come atleta per le Olimpiadi di Roma, era stato convocato nei medio massimi, quando tra l'altro poi la medaglia d'oro è stato Cassius Clay, non ancora Muhammad Ali. Però non sale sul ring, di fatto rimane riserva. A quel punto suo padre, per la delusione, non riesce a rilanciare i suoi stimoli e decide di smettere del tutto, cambia vita. Quindi cerca di instradare Vittoriano al pugilato, probabilmente per Cerca proiettare di proiettare la sua la sua frustrazione, no? frustrazione sul figlio. Vittoriano prova col pugilato, ma non gli interessa minimamente, non capisce, lo dice lui stesso nel libro appunto, non capisce perché dovrebbe tirare dei pugni in faccia a dei ragazzi che neanche gli stanno antipatici. E poi in questo incontro quasi fortuito con la pallacanestro, di fatto, grazie a un amico, giocano un giorno una partita improvvisata in un salotto di casa. Questo suo amico gioca a pallacanestro, in quel momento tra l'altro è ingessato perché si è fatto male giocando a pallacanestro, ma deve comunque far vedere a Vittoriano cos'è la pallacanestro, quindi Dei libri. trova un cubo, neanche una palla, e decide di tirarla verso i volumi dell'enciclopedia allineati sulla libreria. E così Vittoriano scopre non tanto la pallacanestro, certo anche quello, ma scopre il divertimento, una cosa che fino a quel momento non aveva mai Quindi è una forma incontrato. di liberazione per lui iniziare a giocare a pallacanestro, proprio di affrancamento dal padre, dal senso dell'obbligo e del dovere. Assolutamente di formazione, direi proprio. Per lui la pallacanestro è proprio un percorso di, lo aiuta in un percorso di ricerca di sé. Grazie alla pallacanestro trova il suo posto nel mondo, Vittoriano di fatto. Vittoriano è un ragazzo molto alto per un piccolo problema, per un grande problema in realtà, l'ipofisi che ha, quindi affetto da gigantismo, diventerà un 2,15 m in età adulta. E questo gli crea dei problemi nei rapporti durante l'adolescenza, ovviamente visto come un ragazzo diverso. Per la pallacanestro invece questo risulta un vantaggio, quindi lui nel campo di pallacanestro può essere veramente al suo posto, ha senso quello che lui è, non deve più vergognarsi. Quindi la pallacanestro lo introduce di fatto in una società, uno spogliatoio è una società in piccolo in cui ci sono delle regole applicate con violenza anche perché c'è una competizione tra i compagni di squadra e quindi ha una duplice valenza. Una individuale, perché vabbè, la pallacanestro è uno sport di squadra, però si gioca soltanto in 5, quindi l'individualità conta Conta tantissimo. molto, certo. Però è comunque uno sport di squadra, quindi bisogna sempre aver presenti gli altri, sentire gli altri in campo, muoversi insieme a loro. E quindi per lui è sia un percorso di ricerca di sé individuale che un'introduzione in qualche maniera alla società, visto che lui durante l'infanzia e l'adolescenza era stato molto solo con questo padre in un Friuli abbastanza periferico, non aveva Questo padre è amici. autoritario, quindi un po' isolato, eccetera. Però perché hai voluto far arrivare il tuo protagonista negli Stati Uniti a giocare all'NBA? Non ti sarebbe bastato farlo giocare così in Italia? Hai voluto, come dire, tac, dare proprio il colpo? Ma sì, perché Coup l'NBA de ha un théâtre. Sì, perché l'NBA ha un fascino molto particolare, secondo me. Il campionato professionistico penso che è un caso unico in tutti gli sport dove realmente ci sono i più forti, quasi tutti i più forti del mondo. Se si citano i 100 più forti giocatori di pallacanestro, penso che veramente pochi non siano nell'NBA. E quindi mi piacerebbe costruire questa parabola molto alta di Vittoriano, portarlo fino in America. Poi c'è anche un altro risvolto, un altro personaggio importante nel libro è Marta, che è la sua ragazza, che lui conosce a Milano, poi La diventa sua la sua compagna. compagna, sua moglie, la madre dei suoi figli, che è una grande appassionata di letteratura americana. Quindi quando Vittoriano viene scelto nella lotteria delle scelte NBA e ha dei dubbi se andare o no, perché appunto nessun italiano ci è ancora andato e quindi non è facile sceglierlo, perché molti italiani erano stati notati prima di lui, ma nessuno c'era andato. Un caso eclatante è stato Dino Meneghin, che conosceremo tutti, che era stato scelto nel 70 ancora, quindi ancora 15 anni prima, ma poi non è mai andato in America. Quindi quando lui viene scelto ha dei dubbi se andare o non andare, si chiede a Marta, che è la sua coscienza in qualche maniera, e Marta gli chiede chi ti ha scelto, gli Atlanta Hawks, risponde lui, che sono una squadra della Georgia. E Marta ha un forte legame da lettrice, ma anche qualcosa di più con Flannery O'Connor, che è una scrittrice che è Certo. vissuta lì vicino in Georgia. Lì dice, È proprio un segno del Flannery, sì, destino, lì dice dice, prendilo. Flannery O'Connor è vissuta lì vicino, andiamo, gli dice, allora lui non ha più dubbi, ora partono. Senti, però si capisce, insomma, che tu sei stato un giocatore di pallacanestro, di basket, e questo sì. L'espressione è un po' forte, però sì, ho Vabbè, guarda, ho giocato giocato. anch'io, che sono alta 1,5 m, quindi è tutto dire, ma ero anche in una squadra agonista, non ci crederà nessuno, ma è così. Si capisce che usi un po' la pallacanestro come metafora per spiegare alcuni aspetti della vita, almeno della vita del tuo protagonista. Sì, assolutamente. Infatti la pallacanestro era importante proprio per fare da amplificatore a certe dinamiche. La pallacanestro, una cosa in particolare che mi piaceva molto, che dal punto di vista narrativo secondo me funziona molto bene, è che è uno sport di attimi. La pallacanestro ha una durata effettiva delle partite, che in Italia è 40 minuti, in America è 48, e quando si dice che una partita dura 40 minuti, dura effettivamente 40 minuti perché con i falli, le infrazioni, il tempo si Si ferma. ferma. Questo cosa significa? Che solitamente quando le partite sono tirate e si arriva verso la fine, questo tempo viene segmentato molto spesso, ma quindi si dilata, gli ultimi minuti delle partite durano moltissimo. E questo è un po' quello che succede anche nella nostra vita, secondo me. Noi viviamo molti mesi magari in cui non ci succede granché, questo tempo ci scivola un po' addosso, poi in in qualche maniera la vita ci colpisce, ci sono dei momenti invece che acquisiscono senso e si dilatano. Così anche nelle partite di pallacanestro, ci sono degli attimi che possono essere una manciata di secondi alla fine di una partita che racchiudono il senso di tutta una stagione, magari, come anche a Vittoriano succederà. Bella, mi piace questa metafora dell'idea appunto del tempo che a volte si dilata nella vita, come può accadere in quei famosi 10-20 secondi che vedi il countdown Esatto. sostanzialmente sul tabellone di un campo di basket. Grazie allora a Simone Marcuzzi, ora in libreria con 24 secondi, la finta, l'avete capito, autobiografia di Vittoriano Cicuttini, nel senso che è un personaggio che non è mai esistito, tranne nella mente di Marcuzzi, pubblicato da 66 and the Second. Ed è veramente tutto anche per la puntata di oggi. Vi ricordo che, come sempre, potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina per essere sempre aggiornati, insomma, sulle novità editoriali, anche sui contenuti del Cacciatore di Libri. C'è la pagina Facebook, naturalmente, del Cacciatore di Libri, e potete trovare i podcast delle puntate anche d'archivio su radio24.it. Come sempre, se avete perso qualche titolo, c'è la possibilità di riannotarlo su un taccuino. Grazie in regia Filippo Aureggi. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.